Lascia, accendo io le luci lungo la discesa che ti precipita nel buio. A forza di farsi parola, si sfinisce l'anima a vegliare, la pace di un mondo senza cuore, ad amare, perdonare, sopportarmi. Bianco il bosco, bianchi anche gli occhi, sono bianche le cose che amo. Il mio desiderio di fanciulla di neve, ridotto a una riga bruciata. La gente è cieca e per non darsi pena accoglie come gemiti di tomba i segni. Inutile indugiare in piedi accanto ad una bara. Porterò con me la luce e il bene.